nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 8 dicembre, il sole in regione sorto alle 7.36 e tramonterà alle 16.22. Giovedì c'è luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. Il loro numero cresce di giorno in giorno, sono sempre più ricercati dalla clientela e per la raffinatezza che propongono. Sono gli agriturismo che in regione sono ben al di sopra di quota 700 unità, una realtà che sta cambiando e affermando come momento strategico nel settore turistico ed enogastronomico regionale. Passiamo poi alla rubrica del bio che analizza come, cambiando la dieta dei nostri polli, gioco forza devono cambiare anche le intenzioni di semina nei campi e a seguire la seconda puntata della storia del vino nell'antica Roma. L'ipocastano è al centro della rubrica delle piante nostrane e l'allegria che dominava il giorno della macellazione del maiale in quella che dedichiamo alle tradizioni legate a questo nobile animale. Arance candite, ricetta dunque di stagione nello spazio gastronomico e in chiusura come di consueto l'andamento dei mercati, le previsioni del tempo per la settimana entrante con una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana. L'ultimo dato disponibile ci dice che in regione ce n'è 776 e stanno aumentando ogni settimana. Stiamo parlando degli agriturismo, una realtà nel movimento sia del turismo ma anche della campagna e della ristorazione. Quali i loro problemi, qual è la loro situazione? Ne parliamo oggi con Vanessa Orlando, responsabile degli agriturismo di Campagna Amica di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Innanzitutto, definiamolo una volta per sempre. Cos'è un agriturismo che non è un bed and breakfast e non è neanche una fattoria didattica? Un'azienda agricola che in seno alla propria attività, in connessione alla propria realtà agricola, ha deciso di fare attività agrituristica, di ospitalità e di accoglienza e ristorazione. Per quanto riguarda appunto l'offerta di ristorazione, quali sono le caratteristiche che deve avere un agriturismo per chiamarsi tale? Un agriturismo è regolamentato da una normativa regionale che definisce le caratteristiche fondamentali. In primis l'origine della materia prima, per la gran parte aziendale. Per lungo tempo si è pensato che un agriturismo dovesse offrire cose a basso costo con una certa rusticità che qualcuno dopo ha mal interpretato, e però non è così, abbiamo visto. Non è così, l'agriturismo è l'eccellenza della ruralità e quindi la ristorazione di qualità fatta di materia prima locale trasformata in cucina da operatori agricoli che però sono formati per fare ristorazione, sono dei veri e propri chef e che quindi portano sulle tavole dei piatti di elevata qualità. Se il loro numero è in continua crescita, vuol dire che rende. Rende, ma soprattutto è un passo avanti nello sviluppo di un'azienda agricola che nell'ottica della multifunzionalità ha deciso di intraprendere dei canali, degli sbocchi anche economici per la propria attività, che non sono solo quelli della produzione di un bene primario, di un alimento, ma sono anche quello di fare attività di connessione, quindi trasformare in piatti piuttosto che accogliere le persone nelle proprie camere, nei propri rustici. Così siamo arrivati più che al settore agri, a quello turistico. Quanto incidono e quanto sono importanti per il movimento del turismo in Friuli Venezia Giulia? Sono importantissimi. Se guardiamo la nostra realtà regionale, scopriamo luoghi magnifici in campagna dove facciamo passeggiate con animali, dove c'è la pet therapy, dove c'è accoglienza e dove c'è il valore della tradizione che gli ospiti riconoscono e quindi vivono l'esperienza di un turismo slow in campagna. Da un punto di vista normativo c'è qualcosa che cambia o meglio gli operatori chiedono cambi qualcosa? Gli operatori si augurano sempre di lavorare in semplicità, quindi magari con una burocrazia meno pesante, quindi una facilità di gestione dell'impresa che possa permettere uno svolgere l'attività in modo tranquillo. Più di qualcuno questi ultimi mesi soprattutto si è lamentato di non riuscire a trovare personale. Ci sono molte imprese agricole che assumono persone che cercano. Ovviamente lavorare in campagna, lavorare nel mondo della ristorazione, nell'accoglienza implica anche magari un sacrificio che è molto legato anche alla passione. Ci sono molti giovani che in agricoltura lavorano con passione, che quindi si impegnano dalla mattina alla sera, e ci sono aziende che cercano o appunto personale nelle loro attività. Che non si trova. Non sempre. Cambiare l'alimentazione anche ad un solo animale d'allevamento come il pollo potrebbe fare delle vere e proprie rivoluzioni anche in agricoltura, come e perché ci spiega Cristina Micheloni per la rubrica del bio. Il regolamento europeo sull'agricoltura biologica renderà obbligatorio a breve l'utilizzo del 100% di alimenti bio per l'alimentazione dei monogastrici, polli, suini, galline ovaiole. Attualmente, solo per precisare, una percentuale di alimenti convenzionali ma non OGM è ammesso per coprire i fabbisogni proteici. Che cosa si può dare da mangiare quindi a questi polli biologici al 100% bio? Sicuramente si può continuare a fare quello che si fa in convenzionale, quindi ricorrere essenzialmente alla soia, però è una strategia un po' miope che non ci permette di fare bene l'agricoltura biologica poi nei campi. Quindi si è cominciato a prendere in considerazione di nuovo alcuni cereali che hanno magari un po' meno carboidrati, però hanno un profilo aminoacidico più interessante, come per esempio il triticale al posto dell'orzo. Il mais a questo punto diventa di nuovo meno interessante. E per quanto riguarda delle fonti proteiche alternative, si sta guardando soprattutto alle oleaginose, come il colza, il girasole, oltre alla soia evidentemente, però colza e girasole che cominciano a essere sempre più frequenti nei nostri campi e che quando vengono spremuti per ottenerne l'olio lasciano un pannello molto ricco in proteine che tra l'altro ha un profilo di aminoacidi molto più interessante rispetto anche a quello di soia. Ma anche colture alternative come la canapa per esempio ha un pannello dopo la spremitura che ha un importante contenuto di proteine. Poi ritornano in auge anche alcune leguminose che sono un po' marginali, non solo il pisello proteico ma anche il lupino e il favino, e una cosa interessante è che ci sono delle varietà che crescono bene anche nei nostri climi, quindi potremmo reintrodurle nella rotazione. Quindi questo cambiamento nella dieta degli animali sta portando e porterà una diversificazione ulteriore nella rotazione colturale. Evidentemente ci serve però anche un supporto da chi lavora dopo il campo, ovvero i centri di raccolta, perché stoccare questi prodotti dovrà comunque essere fatto da chi fa attualmente lo stoccaggio per esempio della soia piuttosto che del mais, ma richiede delle aree separate, delle tecniche un pochetto diverse da quelle usualmente in uso. Quindi ci aspettiamo un sostegno anche da chi trasforma e lavora e stocca questi prodotti, altrimenti non riusciremo a fare questo passo che è un'opportunità da cogliere. Seconda puntata oggi con il professor Roberto Zironi, che insegna enologia all'Università di Udine, per parlare del vino nell'antica Roma. Dopo gli inizi tra Greci ed Etruschi siamo arrivati praticamente alla coltivazione della vite secondo gli schemi greci etruschi. Le talee che sono prodotte, diciamo, per la propagazione della vite sono il risultato di una mescolanza di incroci genetici tra varietà coltivate e varietà selvatiche. Quindi assistiamo in questa fase ad una notevolissima diffusione delle varietà di viti, potremmo dire. Selezionate quelle, diciamo, da semenzali che danno caratteristiche positive, vengono quindi riprodotte. L'uva arriva in cantina. Non cambia nulla dalla, diciamo, vinificazione dell'antico o dalla vinificazione dei greci. L'obiettivo è sempre quello di produrre un vino ad alta gradazione alcolica che viene fatto fermentare all'interno di contenitori internati, idolia, e che viene commercializzato all'interno di anfore di capacità di circa 20 litri. Quello che cambia è l'affinamento delle tecniche, potremmo dire, enologiche. Innanzitutto compare un prodotto che viene utilizzato come correttore dello zucchero se l'uva non è particolarmente zuccherina, cioè un mosto concentrato a caldo che prende il nome di sapa. Oggi quella sapa la troviamo ancora utilizzata ad esempio nella produzione di alcune tipologie di Marsala o nella produzione artigianale familiare del vin cotto delle Marche piuttosto che dell'Abruzzo. Oltre a questi vini concentrati esiste poi una seconda categoria di prodotti che veniva ottenuto da vinellatura delle vinacce e da vinificazione di uve povere, diciamo, di zucchero. Questo prodotto si chiama posca ed era il prodotto degli schiavi, il prodotto, diciamo così, delle popolazioni povere, ma anche il vino dei legionari. Essendo a bassa gradazione alcolica tendeva leggermente a inacidire, ma questo andava molto bene nel caso dei legionari per tre motivi. Il primo era una bevanda di setante, il secondo era una bevanda salina, terzo poteva servire per bonificare l'acqua quando non se ne aveva la certezza della potabilità. Per chiudere, quando il legionario alla croce fornisce a Cristo l'acqua della sua borraccia, non gli fornisce aceto, gli fornisce posca. Quindi non è un atto di disprezzo, ma è un atto di compassione. Li ipocattano è uno degli alberi più coreografici che si possano incontrare anche qua da noi. Purtroppo è anche bersaglio di malattie ed insetti, ma a quanto pare si sta riprendendo, come ci dice Antonino Danelutto. Originaria dei paesi balcanici e dell'Asia occidentale, l'ipocastano è stato introdotto in Italia nel XVI secolo. Da allora si è diffuso ovunque, nei centri abitati, nei giardini, lungo i viali. Coltivato per ornamento, solitamente non tende ad inselvaticchire, anche se porta a maturazione numerosi semi che, pur germinando, danno origine a piantine che difficilmente sopravvivono. Dalla fine del secolo scorso si è diffusa in Europa la cameraria, una piccola farfalla le cui larve scavano delle gallerie all'interno della foglia dell'ipocastano, causandone il disseccamento e quindi la defogliazione. Un efficace rimedio per la pianta è dato da specifiche microiniezioni alla base del tronco. Il nome scientifico è Esculus ipocastanum, in friulano Chiastinar salvadi, Tistignar mat, mentre volgarmente è detto castagno d'India o più comunemente ipocastano, cioè castagno dei cavalli, perché si dice che in passato in Turchia i cavalli affetti da tosse e difficoltà di respirazione venissero curati con i suoi semi. È un albero alto anche oltre 20 metri, ha foglie palmate a 5-7 lobi oblunghi con margine seghettato. I fiori, la cui corolla ha petali bianchi con macchie centrali rosse e gialle, sono riuniti in un'elegante pannocchia terminale eretta. Il frutto spinoso contiene da 1 a 3 semi grandi, simili a castagne, amari e non commestibili anche perché leggermente tossici. L'uso alimentare dei semi, ormai abbandonato, era limitato ad una fecola destinata all'alimentazione del bestiame. In fitoterapia si utilizzano i semi che contengono, fra le varie sostanze, il principio attivo escina, che rinforza le pareti dei capillari e ne riduce la permeabilità. Benefici si ottengono in caso di varici, flebiti, emorroidi, crampi notturni ai polpacci. Tuttavia, a causa della difficoltà di dosaggio, non si consigliano preparazioni domestiche. Per uso esterno risultano efficaci come sgrassanti dei capelli e contro geloni e cellulite. Nella medicina popolare la corteccia veniva impiegata contro la febbre, le foglie contro le pertosse dei bambini ed i fiori contro la gotta e i reumatismi. Ricordo che un vecchio farmacista piuttosto scettico sull'efficacia dei medicinali contro il raffreddore soleva rispondere ironicamente a chi gli chiedeva un parere a riguardo. Secondo me, il raffreddore curato con un farmaco scompare in 7 giorni. Invece, tenendo in tasca 3 castagne d'India, la guarigione è garantita in 1 settimana. La scorsa puntata con Adriano De Fabbro, che ci cura la rubrica dedicata al maiale e ai suoi prodotti, avevamo parlato di Sant'Andrea, la data in cui si fa coincidere la stagione della macellazione. Avevamo parlato del giorno della macellazione, che non è solo un giorno di lavoro, ma anche un giorno di gioia, di scherzi. E non a caso Adriano ha intitolato questo suo contributo di oggi «La misura dei salami». Nel giorno della macellazione i ragazzi si godevano la festa a tutto tondo. Non era raro che venissero coinvolti dai grandi nelle operazioni più facili e adatte. Molti erano gli scherzi a cui erano sottoposti. Ce n'era uno classico che ogni purcitar si portava con sé in giro per le famiglie, destinandolo a qualsiasi nuovo ragazzo che non l'avesse mai subito. Individuato il novizio, la vittima, diremmo, con fare molto serio il norcino lo chiamava a sé e gli affidava un compito assai importante: andare a recuperare la misura dei salami al negozio del paese o in una casa del borgo, poiché lui se l'era dimenticata a casa. Ovviamente la misura non esisteva, ma il negoziante e tutto il vicinato sapevano che si trattava di uno scherzo. Per rinforzare la presa in giro davano al ragazzo un legnetto. Tutto orgoglioso, lo sprovveduto ritornava dal norcino per consegnargli la misura che era riuscito a farsi dare, ma spesso trovava i salami già preparati e così, tra le risate generali, capiva di essere stato preso in giro. Dopo un primo attimo di smarrimento rientrava subito nello spirito della festa, poiché il norcino gli affidava per ricompensa un piccolo salame tutto per lui. A volte, mentre il norcino scarnificava la testa, chiamava un bambino e gli diceva: «Vediamo se hai coraggio. Tienigli chiusa la bocca con il cordino, altrimenti potrebbe mordermi». Norcini più o meno spiritosi avevano in serbo tutta una serie di altri scherzi personali per mantenere viva la partecipazione dei ragazzi e alta la tensione della festa. A volte si diceva di aggiungere nel pentolone del cortile acqua fredda a quella bollente e mescolare accuratamente perché si uniscano bene. oppure veniva chiesto di andare a recuperare il nettaorecchi per il maiale da spellare. A qualcuno veniva suggerito di fare attenzione durante la faticosa macinazione manuale di non girare la manovella all'indietro per non far tornare vivo l'animale. Al più piccolo veniva affidato un pezzettino di orecchio da piantare nell'orto per far crescere i maialini. All'ingenuo goloso veniva fatta assaggiare un po' di pasta fritta di cui era stata alterata la concia con abbondanti spezie. L'inevitabile espressione sconcertata dell'ignaro oggetto dello scherzo provocava le risa e le battute dei presenti che intanto non rallentavano per questo i lavori a cui si stavano dedicando. Compito dei ragazzi era pure quello di gonfiare la vescica che in seguito sarebbe stata riempita con il grasso sciolto. Ci volevano buoni polmoni per farlo bene, così si teneva una specie di gara per vedere chi era il più bravo, facendole raggiungere il diametro maggiore. Roberto Zottar è a letto per i malanni di stagione, ma ugualmente non ha voluto mancare al suo appuntamento con la gastronomia con questa ricetta sulle arance candite che ci ha letto al telefono. Abbiamo parlato di biscotti natalizi, ma a Natale si degustano anche marzapani, torroni e frutta candita. I canditi, vere e proprie leccornie dal sapore semplice e intramontabile, sono dei dolci molto antichi che nascono come metodo conservativo per frutta, radice e piante. La conservazione mediante il zucchero o miele era già conosciuta dalle antiche popolazioni della Mesopotamia e della Cina e i romani utilizzavano questo metodo addirittura per la conservazione del pesce, immergendolo totalmente nel miele. Coloro che interpretarono per primi questa pratica, volta ad arricchire i propri banchetti, furono pare gli arabi, che scelsero frutti e fiori da intingere in una soluzione zuccherina, ottenendo dolci molto apprezzati. Con le dominazioni degli arabi nel mondo occidentale, i canditi giunsero anche nel nostro paese e l'uso della frutta candita iniziò a diffondersi a partire dal 500, quando divenne parte integrante di alcuni dei dolci tradizionali italiani come la cassata siciliana. La canditura è risultato dell'operazione consistente nella prolungata e ripetuta immersione della frutta in una soluzione di zucchero resa via via sempre più satura con il riscaldamento. L'origine della parola sembra derivi da candi, termine arabo che indica il succo di canna da zucchero concentrato. In passato si candivano fiori e frutti, ma soprattutto gli agrumi. Ecco quindi che oggi vi voglio proporre di preparare da soli in casa delle scorze di arancia semicandite, che di solito riscuotono molto successo, sia per la bella figura decorativa che fanno su vassoi di dolciumi, sia soprattutto per il gusto, perché il dolce dello zucchero si armonizza con l'amaro della buccia. Si comincia con il taglio degli agrumi, si taglia l'arancia come per pelarla a vivo, così da far sì che alla scorza rimanga attaccata un po' di polpa. Questi spicchi di scorza si mettono in una pentola coperti di acqua fredda e si fanno bollire per 5 minuti. Si scolano e si ripete l'operazione di bollitura per altre due volte, tre in tutto, con nuova acqua per far perdere l'amaro alla frutta. Intanto in una teglia da forno si versa uno sciroppo fatto con 500 g d'acqua e 300 di zucchero, dose per 3-4 arance naturali non trattate. Si mettono le scorze in un solo strato senza sovrapporre e si lascia sobbollire piano o su un fornello o meglio al forno a 140 gradi per un paio d'ore, finché avranno assorbito tutto lo sciroppo e tenderanno ad essere trasparenti. Con l'aiuto di due forchette si rotano gli spicchi nello zucchero semolato e poi si lasciano asciugare su una grattella per un giorno. Volendo, invece dello zucchero, possono essere intinte nel cioccolato fuso. Buon appetito! E con Amos D'Antoni ora all'andamento dei mercati agricoli. Andamento stabile alle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 15,70 e 15,90 euro al quintale IVA esclusa. La soia tra 33,10 e 33,40. L'orzo con peso specifico 60,63 tra 15,70 e 16,20. Il frumento tra 18,30 e 18,60. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 90 centesimi, il quintale e la soia di 10. Mercato fiacco nel comparto dei bovini e macello, con le vacche fine carriera di prima qualità pagate a peso morto tra 2,40 e 2,90 euro al chilo IVA esclusa e quelli di seconda tra 1,80 e 2,40. Contrattazioni ancora sofferenti nel settore dei vitelli da ristallo, con i blu belga maschi quotati tra 5,80 e 6,20 euro al chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4 e 4,40, i frisoni tra 1,40 e 1,70, i bruni tra 1,50 e 1,70. Toni con tendenze sostenute invece nel comparto suinicolo, con il valore dei lattonzoli di 30 kg franco partenza, fissato a 2,82 euro il chilo IVA esclusa, e i grassi da macello in aumento a 1,66. Il latte naturale di vacca Franco Stalla, compresa refrigerazione, è quotato dalla Camera di Commercio di Udine a 38,50 centesimi il litro. Infine, tendenze positive nel mercato degli avicunicoli, con i polli a terra pagati tra 0,95 e 0,97 euro al chilo, i tacchini maschi tra 1,56 e 1,58, le faraone tra 2,30 e 2,34, le anatre tra 2,45 e 2,49, le oche tra 4,90 e 5,10, i conigli oltre di chilo e mezzo quotati dal CUM di Verona tra 2,65 e 2,71, mentre il prezzo delle uova oltre i 73 grammi è di 13,80 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Marcellino Salvador diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Novembre è finito da una settimana e ciò consente di fare un bilancio meteorologico completo. Se fossimo obbligati a usare un termine solo, diremmo che questo novembre è stato acqua, per la pioggia, per la neve, per il mare che ha invaso le nostre città di costa, per i terreni più simili ad acquitrini, per i fiumi spesso in piena. Per quanto riguarda le precipitazioni, si è andati dai 300 mm di Trieste ai 1200 mm delle Prealpi e di Tolmezzo, valore che per il capoluogo carnico è da record. In pianura la media si attesta tra 400 e 500 mm, con Udine a 440 mm di pioggia, record per novembre degli ultimi 60 anni assieme ad altre località. In genere ha piovuto tre volte la norma, con variazioni da zona a zona della regione che vanno da un minimo di due volte fino a cinque volte il quantitativo atteso. Statisticamente un novembre così piovoso capita una volta ogni 50 anni. C'è da dire che non abbiamo avuto episodi eccezionalmente forti come era successo nel 66, ma è stata l'alta frequenza di fronti, anche intensi, ad essere sorprendente e a determinare in media ben 20 giorni con pioggia rispetto ai 10 giorni normali. Il mare, con una coincidenza di fattori meteorologici particolari, ha determinato un'acqua alta eccezionale a grado, e non solo, con valori che rientrano nei primi tre posti da quando si misura. Il mare ha inoltre stabilito la temperatura media record per novembre con 17,3 gradi a Trieste, battendo il precedente record di 17,2 gradi del 2014, quasi 2 gradi oltre la norma. E 2 gradi oltre la media climatica è stata anche la temperatura dell'aria. Siamo così al sesto mese di fila più caldo del normale. Passando alle previsioni, domani passerà un fronte atlantico che porterà delle piogge deboli o moderate sulle zone orientali, mentre martedì e mercoledì avremo sole con intense gelate notturne nella notte tra i due giorni, costa esclusa, massime su pianura e costa attorno agli 8-9 gradi. Nella seconda parte della settimana, correnti atlantiche porteranno altri fronti che al momento non paiono molto consistenti e che determineranno tempo incerto, per cui vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti delle previsioni che l'OSMERARP elabora quotidianamente e che vengono diffusi dai notiziari regionali della RAI, in TV con Buongiorno Regione, nonché resi disponibili sul sito www.meteo.fvg.it e con la telefonia mobile. Termina qui la puntata, anche oggi vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano: a San Nicolò il freddo dis soi cacumò, ovvero a San Nicolò il 6 dicembre il freddo dice eccomi qua. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.